insegno i colori e a scrivere il nome tuo, a correre i prati guardando il cielo lassù. Il pallone rotolò immerso nei fiori, gialli colori confusero profumi di fuori città. Ti insegno gli amori e a prendere il vento tuo, i mondi sommersi profondi nel mare laggiù. Un padre solo cosa fu davanti al figlio, forti emozioni tesero verso il tempo che restò. Quando sarai grande forse rimarrà in te questa vecchia immagine, il ricordo tuo di me. Quando sarai grande, forse parlerai di me nelle nostre pagine, nelle note mie di te. Cercasi un mondo che non fu. Cercasi il tempo che non fu e non torna già più. Mi insegni l'onore e a dare il meglio di me in ogni occasione, anche quando un motivo non c'è. Un padre solo cosa può rispetto al figlio, ma non arrivo a parlarti nel tuo stare solo laggiù. Quando sarò grande, forse rimarrà in me questa dura immagine, il ricordo mio di te. Sarò grande, forse parlerò con te nelle nostre lacrime, nelle note mie di te. Cercasi un mondo che non fu. Cercasi il tempo che non fu. Cerca.